ritrovati e ben ritrovati alla Fuga del Gatto, 18:50 di domenica 16 giugno. Stoppo un po' prima la sigla perché tanto ormai la conoscete, Domenico Scarlatti, K30 in sol minore, detto anche La Fuga del Gatto. Non è vero, sì, è vero. E, ho avuto un attimo un lapsus sulla nostra stessa sigla. Allora, La Fuga del Gatto ritorna anche oggi per parlare di musica classica, come siamo abituati a fare, farvi ascoltare un po' di musica raffinata. E oggi avevo molti dubbi su cosa farvi ascoltare, se ve la devo dire tutta, perché avevo pensato di continuare un po' il filone del iniziato la settimana scorsa con Guillaume de Machaut e farvi ascoltare, beh, vi ricorderete, insomma, parlavamo dell'Ars Nova francese del 1300 e ci stava tutta continuare questo filone con l'Ars Subtilior, che insomma è un po' forse un antagonista dell'Ars Nova, sicuramente completava quel tipo di musica, di questa cosa ve ne parlerò un'altra volta, perché in realtà poi a un certo punto a gamba tesa è arrivata alle mie orecchie il fatto che oggi è l'Handel Day. Ebbene sì, si festeggia l'Handel Day, ovvero i 250 anni dalla morte di Georg Friedrich Handel, e quindi tutte le radio, a cominciare da Radio 3 devo dire, hanno festeggiato a loro modo e festeggiano oggi a loro modo questo anniversario, dedicando delle trasmissioni a Handel e alla sua musica. Allora io sono entrata subito in competizione e ho detto vabbè, non vedo perché la Radio Wombat e La Fuga del Gatto deve essere da meno, cioè anche noi vogliamo partecipare a questo banchetto e a questo, cioè a questi festeggiamenti, che siamo noi, cioè che a noi non ci invitano, non ho capito, siamo la tappezzeria, quelli, gli amici sfigati che stanno da una parte. Sì, forse sì, forse in effetti ci autoinvitiamo a questo banchetto, ma vabbè, ci saremo, e quindi la puntata di oggi ovviamente è dedicata a Handel. E per farlo ho scelto una composizione in particolare, una delle prime composizioni di Handel, sicuramente la prima che ci arriva manoscritta, e Dixit Dominus. Ma insomma, ora poi vedremo meglio di cosa si tratta. Ve la farò ascoltare questa composizione in integrale, per intero, dura poco più di 30 minuti, una mezz'oretta, e quindi insomma adesso ci sono un po' tutte le chiacchiere per introdurvi a questa composizione e contestualizzarvela un pochino. Prima di questo però vi ricordo i nostri social Wombat, il sito wombat.noblogs.org e la casella di posta wombat@insiberia.net. E insomma, questi sono i nostri fondamentali e principali contatti ai quali iscriverci o insomma attraverso i quali informarvi e tenervi in costante aggiornamento su quello che facciamo, su quello che è la nostra meravigliosa Radio Wombat. Veniamo a noi. Dixit Dominus, dicevamo, di Handel, detto anche numero di catalogo HWW232. È il manoscritto autografo del Dixit Dominus, è il più antico documento di Handel a noi pervenuto, ed è un salmo in latino messo in musica da Handel a Roma, di questo siamo sicuri, e siamo sicuri anche della data, la primavera, probabilmente l'aprile del 1707. Il salmo di cui si tratta è il salmo 109 del libro di Davide, ed è un salmo piuttosto importante per la cultura cristiana e cattolica, insomma diciamo che è stato studiato un bel po', è un salmo piuttosto centrale. Ma questo ci interessa al giusto, ci interessa più che altro Handel, e come scrive questa composizione, come arriva a scriverla e che cos'è questa composizione soprattutto. Handel nel 1707 ha 22 anni, arriva in Italia e fino a quel momento in realtà il compositore si era cimentato più che altro con un repertorio profano, una serie di cantate in particolare lì in Italia. Handel arriva in Italia incuriosito, ma in qualche modo anche prevenuto sulla cultura più che altro musicale italiana, anche con un certo carico di astio, probabilmente ereditato dalla tradizione musicale inglese, che non vedeva affatto di buon occhio l'opera, in particolare l'opera italiana. Beh, questo poi insomma rientra pienamente. Siamo al Settecento, non, ecco, i bei tempi in cui tutte le musiche più o meno le culture si intrecciavano tra loro e se si arricchivano a vicenda, sono un po' lontani, anche se poi vedremo questa cosa succede e come. Però c'è una rivalità molto palese, molto manifesta tra le varie scuole di pensiero e scuole musicali dei singoli paesi o comunque delle aree geografiche rispettive. L'opera francese contro l'opera italiana, a sua volta contro l'opera inglese, insomma, c'era un po' un pollaio di prime donne. Quindi non deve stupire che Handel arriva in Italia sotto consiglio e sprone di diversi suoi conoscenti, arriva in realtà piuttosto incuriosito, ma come dire, un po' così, sul chi va là, ecco. In Italia però in realtà rimane completamente estasiato e conquistato, evidentemente, e peraltro questo rapporto di fascinazione è reciproco perché Handel, il caro sassone, così come veniva insomma, apostrofato, viene conteso tra le più potenti famiglie e corti cardinalizie dell'epoca. E beh, e succede che a un certo punto la precisione, il rigore pulito tipico di Handel, anche se aveva soltanto 22 anni, ma insomma, come sappiamo, al tempo 22 anni non erano pochi. Questo rigore, questa precisione si fondono un po' con l'umanesimo italiano, probabilmente con altre basi, altri fondamenti della musica italiana, e da questa unione ne nasce una potenza espressiva ricchissima che poi insomma fa da cardine, come dire, da asse portante di tutta la musica anche successiva di Handel. Poi vedremo, Handel torna in terra, insomma, in Inghilterra e anche lì c'è chi lo accoglie con enfasi e incredulo e estasiato dalla sua musica, nel frattempo contaminata appunto dall'area italiana, e c'è chi invece, sì, ok, esotico, ma che è sta roba. Ma tornando al nostro Dixit Dominus, ci sono anche qui varie ipotesi. In particolare James Hall ipotizza che questo lavoro, Dixit Dominus, fu commissionato insieme a Laudate Pueri e il Nisi Dominus da il cardinale Carlo Colonna per la grande festa di Nostra Signora del Monte Carmelo a Santa Maria di Montesanto, e qui fu anche eseguita, secondo questa teoria, che si svolgeva questa festa ogni 16 luglio in Piazza del Popolo a Roma. Ma c'è anche un'altra teoria, perché in realtà su questa prima teoria non sono arrivate fino a noi delle fonti attendibili, dei documenti, quindi boh, è un po' una teoria che in realtà adesso si tende a mettere abbastanza si tende un po' a confutare, ecco. E un'altra teoria, un po' più accreditata adesso, è che invece sia stata eseguita questa composizione il 1º maggio a Frascati, non ci spostiamo di molto, geograficamente, ma insomma, per l'onomastico del re Filippo V, celebrato dagli spagnoli. Perché si arriva a questa ipotesi? Perché l'ambasciatore spagnolo pare che si fosse recato a Frascati qualche giorno prima, partì oggi alla villeggiatura di Frascati con la duchessa e tutta la sua famiglia, il duca Duceda, ambasciatore di Spagna, per crede e credesi non sia per ritornare così presto, ma che tratterassi, no scusate, tratterrassi, non so come sono potuta inciampare su questa parola ovvia, per vedere dove vadano a terminare le presenti contingenze e la minacciata invasione del regno di Napoli. Insomma, non andava proprio bene, era un periodo in un po' così, fondamentalmente come succedeva spesso in quei secoli, non soltanto nel Settecento, ma insomma, appunto Re Filippo V se ne era un po' scappato, perché non tirava una bella aria a Napoli. Il 1º maggio aveva organizzato verso la propria dimora una grande festa. E che niente, quindi questa festa c'erano immaginerete, varie personalità, e celebrandosi oggi la festa dei Santissimi Apostoli Filippo e Giacomo, il nome del primo dei quali ritiene il re Filippo V di Spagna, l'ambasciatore cattolico che si trattiene a Frascati, fece l'autopasso, essendovisi portati di Roma gli auditori di Rota, Molines e Domagna spagnoli e Polignac francese, con gli cardinali del giudice, tre mogli, insomma, tutta il fior fior della crema dell'epoca. Mamma mia. Quindi, insomma, è possibile che lo stesso ambasciatore o uno dei suoi ospiti, tutta questa crema di ospiti, abbia voluto rendere un po' omaggio al re con un evento musicale scritto da quello che in quel momento effettivamente era un po' il pupillo del momento delle varie famiglie romane, perché insomma Handel era al servizio in quel momento di Francesco Maria Ruspoli, marchese molto potente e molto importante, godeva anche i favori dei cardinali Benedetto Pamfili e Pietro Ottoboni, vice cancelliere della Chiesa, e anche della famiglia Colonna, come abbiamo visto prima, Carlo Colonna in particolare. E la scelta di questo Salmo 109, che ha per sottotitolo Una voce profetica riafferma la futura vittoria, oddio, non riesco a dire le parole, la futura vittoria del Messia sulle nazioni, e poi anche altre citazioni come Finché io renda i tuoi nemici sgabello per i tuoi piedi, che robette. Insomma, ci fa un po' accreditare questa tesi perché, insomma, era una ricorrenza solenne, per un re, e un re oltretutto un po' in difficoltà, come abbiamo visto, e il cui potere, si voleva in qualche modo rinfrancare anche con un omaggio musicale. Allora, questo Dixit Dominus, lo sentirete, è sì un'opera giovanile perché comunque Handel aveva 22 anni, ma è un'opera tutt'altro che buttata lì e tutt'altro che acerba, ecco, è qualcosa di incredibilmente bello. È strutturata in 9 sezioni, ed è, insomma, poi adesso direi veramente alle prime note si coglie subito un'energia incredibile, corroborante in qualche maniera, e una teatralità peraltro drammatica. Che sì, ok, era un componimento sacro, ma Handel ci sapeva giocare benissimo, e anche all'interno di un componimento sacro che insomma si suppone dovesse avere un certo rigore, anche una certa serietà, seriosità soprattutto, Handel riesce con una notevole dose di sapienza a dipingere delle scene, dei chiaroscuri, dei momenti che sono quasi delle digressioni, lo vedremo. Ci sono dei momenti in cui c'è un super impeto, c'è un'appassionata carica fatta con un coro, mille voci che si inseguono, e poi a un certo punto la scena successiva è totalmente più intima, più mistica quasi, e insomma allude a delle tinte molto più più delicate e magnetiche poi anche però. Quindi insomma ci sapeva fare il ragazzo e c'era questo organico per il quale Handel aveva pensato a questo componimento, che erano un coro a 5 voci con due soprani e un alto, poi lo vedremo meglio nel dettaglio, e un'orchestra d'archi con due parti reali di viola e poi ovviamente il basso continuo. E questo organico e tutti gli strumenti, devo dire, sono sottoposti continuamente ha delle prove di agilità e di bravura notevoli, cioè è una composizione veramente, veramente difficile e complessissima, di veramente difficile esecuzione. Quindi si richiede, beh, spesso Handel fa questi scherzetti, si richiede un virtuosismo notevole agli esecutori. Però allo stesso tempo l'esecutore viene messo anche in qualche modo a suo agio, cioè se ci stai, se in qualche modo decidi di metterti alla prova, di prendermi la mano, ti porto in un terreno bellissimo dove in fondo starai comodo, però devi osare. Questo è fondamentalmente quello che fa a livello tecnico, secondo me, Handel in questa composizione, e il risultato effettivamente è qualcosa esuberante, che direi che è veramente una delle cose che potrebbero spiegare il barocco, ecco, in maniera proprio semplice e intuitiva. E beh, è anche evidentemente una sorta di sfida che Handel lancia all'Italia e a Roma, essendo arrivato da poco. Ecco, questo sono io, e ora vedete cosa so fare. Ci sono molte citazioni stilistiche insomma, da cui attinge di altri repertori, di altre musicalità, dal Cantus Firmus gregoriano, ha un contrappunto invece molto, molto preciso, molto rigido. Poi ci sono delle arie solistiche mischiate a delle polifonie. Insomma, non era, è molto vario, molto ricco e pieno di cose. Effetti drammatici, effetti barocchissimi, a sottolineare i punti salienti. Insomma, in particolare ci sono appunto delle cose che così mi sento di sottolinearvi, come per esempio una delle parti, Tu es sacerdos, dove c'è insomma, un momento molto molto molto bello intenso, dove c'è una linea di cantus firmus di bassi, dove sopra si sviluppa un contrappunto fugato bellissimo e interessantissimo, che insomma non era proprio una cosetta buttata lì, era sicuramente qualcosa che all'epoca lasciò abbastanza sbalorditi. Dicevamo dell'organico strumentale, qui si tratta di due violini in particolare, due viole in basso continuo e poi ci sono due voci soliste, soprano e alto o contralto, che anche in realtà poi vedremo nell'edizione che ascoltiamo, sarà un controtenore a fare la parte dell'alto, e poi il coro con due soprani, alto, tenore e basso. Ci sono queste 9 parti, ve le leggo velocemente, in realtà sono 8 perché poi c'è una ripresa alla fine, ma qui ci ascoltiamo le 8 parti in realtà, che sono poi quelle diverse tra loro. La prima, Dixit Dominus Domino Meo in sol minore, con coro, due violini di viole e basso continuo, strumentale col coro. La seconda, Virgam Virtutis Tue si bemolle maggiore, un'aria questa per contralto e basso continuo. La terza, Tecum Principium in La bemolle maggiore, un'aria di nuovo per soprano, questa volta due violini, due viole e basso continuo. La quarta, Iuravit Dominus, grave, qui abbiamo anche un'indicazione, in La bemolle maggiore, coro, due violini, due viole e basso continuo. poi ritorniamo sul Tu es sacerdos secundum ordinem Melchisedec, madonna com'è difficile questa parola, in si bemolle maggiore, l'aria che, l'aria, insomma, no, no, non è un'aria, la parte di cui abbiamo parlato poco fa, un coro, due violini, due viole e basso continuo. Poi abbiamo la sesta parte, Dominus ad extris tuis, un allegro in re minore, sempre con lo stesso organico, coro, due violini, due viole, basso continuo, e ancora un coro, la settima parte, di torrente in via bibet, in do minore, coro, due violini, due viole, e questa volta un violoncello e basso continuo. L'ultima, Gloria Patri et Filio, in sol minore, ritorniamo all'organico principale, coro, due violini, due viole e basso continuo. Io direi che vi ho detto un po' tutto, l'unica altra cosa che non vi ho detto è qualche dettaglio sull'esecuzione che ci stiamo per ascoltare, l'interpretazione, la versione che ci andiamo ad ascoltare. Ne esistono ovviamente moltissime, purtroppo non è che proprio si senta, vabbè, smetterò subito di lamentarmi di questa cosa perché me ne lamento praticamente in ogni puntata della Fuga del Gatto, però ecco, non è che effettivamente in Italia proprio è un'esecuzione che viene effettuata tutti i giorni, ma questa, ce ne sono comunque diverse, e quella che ho scelto io è eseguita dalle Consort d'Anstre, diretta da Emmanuel Haim, e gli esecutori sono Nathalie Dessé, Karine Desai, chissà come si legge, Karine Desai, penso, Philippe Jarouski, Toby Spence e Laurent Nauri. E con questo io, secondo me, ho esaurito un po' le cosette da raccontarvi, e una puntata un po' così, non è intramezzata parole e musica come spesso invece facciamo. Qui invece adesso vi lascio a proprio un fiume intero di musica, che però ne vale la pena e non mi sentivo assolutamente di poter interrompere. Quindi vi lascio a questa bellissima composizione di Handel, Dixit Dominus, e vi do appuntamento quindi a domenica prossima, sempre intorno alle 6:30, sempre alla Fuga del Gatto su Radio Wombat. Ciao ciao! Thank you.